Dio è troppo buono per fare giustizia e vendicare? Leggo in Apocalisse capitolo 6, versetti 9 a 11 nella Bibbia. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio che dovevano essere uccisi come loro. Un'idea piuttosto diffusa è che Dio, se davvero dovesse esistere, sarebbe troppo buono per destinare alcuni ad un posto così brutto come l'inferno. Infatti negli ultimi decenni sono proliferati anche tra i cristiani coloro che non credono che Dio punirà l'umanità peccatrice, che non si sarà riconciliata con Lui. Insomma, alla fine si pensa che con un colpo di spugna Dio perdonerà tutti. Ma nella Bibbia non mancano i brani in cui si parla di giustizia e vendetta. Alcuni associano questi concetti alle scritture del Vecchio Testamento e pensano che Dio nel Nuovo Testamento sia cambiato. Tutto questo però è assurdo. Dio infatti non cambia, Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli è amorevole nei confronti dell'umanità peccatrice e lo è al punto che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma cosa accadrà a chi rifiuta la sua grazia? Il brano appena letto si trova nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. L'immagine è quella di martiri uccisi per la loro fede che gridano a Dio per sapere quando Dio sarebbe intervenuto per fare giustizia e vendicare la loro morte nei confronti degli abitanti della terra increduli. Dio non risponde dicendo che non ci sarà giustizia né vendetta, perché quelle cose non sono cristiane, come direbbero alcuni. Dio risponde piuttosto che dovranno attendere ancora e che prima ci sarebbero stati altri martiri come loro. Infatti nel resto dell'Apocalisse si vede che i credenti vengono perseguitati e uccisi in gran numero. I cristiani sono esortati a non cercare la vendetta con le proprie mani, ma questo non vuol dire che giustizia e vendetta non saranno mai fatte. Ad esempio in Romani capitolo 12 versetto 19 è scritto: «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». Questo è un concetto ribadito molto chiaramente in questo brano, che troviamo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 6 a 9. «Poiché è giusto, da parte di Dio, rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Chiunque insegni che Dio alla fine perdonerà tutti, lo fa ignorando l'insegnamento del Nuovo Testamento a riguardo. Che ci piaccia o no, in questo brano è detto che coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù subiranno una rovina eterna e saranno respinti dalla presenza del Signore. Coloro che amano Dio otterranno riposo, ma otterranno anche giustizia e vendetta. Coloro che oggi uccidono, seviziano, maltrattano il popolo di Dio nel mondo farebbero bene ad approfittare del tempo che resta loro da vivere per pentirsi e cercare la riconciliazione con Dio in Cristo, perché Dio è buono, ma è anche giusto. Non si può annunciare l'amore di Dio al mondo senza dire anche che il giudizio di Dio si manifesterà sul mondo, argomento di cui spesso non si parla oggi. Il messaggio cristiano è un messaggio di amore, ma non dimentichiamo che finirà per essere un messaggio di giudizio per chi se ne fa beffe.